Tanto tempo fa, le femmine del mondo animale si incontrarono per stabilire chi fosse la vera femmina. Si riunirono ai bordi della foresta in un'ampia radura vicino al mare. Erano già arrivate in tante quando la leonessa entrò all'interno del cerchio che si andava formando ed iniziò a parlare. La vera femmina sono io. Voi tutte lo sapete. Osservate i miei muscoli e i miei artigli, il mio incedere calmo e regale. Sono cacciatrice, regina e madre. Mi basto sola. La vera femmina sono io. E girovagava ruggendo con orgoglio che anche le più lontane potessero sentirla, e tutte ne furono scosse per la potenza che esprimeva, e videro la sua fierezza e forza, e ne rimasero colpite, e tutte pensarono che la vera femmina fosse lei. Finché dal cerchio avanzò strisciando la serpentessa. La vera femmina sono io. Era sinuosa e suadente, piena di fascino e di mistero. Tutte erano incantate dal suo magnetismo. Rimasero con il respiro sospeso, implacabilmente attratte da lei. Da sempre la vera femmina sono io. Non mi spaventano i tuoi muscoli. Nei tuoi artigli abbi invece cura di non avvicinarti al morso del mio veleno. Io sono la sensualità, la seduzione. Io sono la vera femmina. Tutte erano eccitate da quella vista, finché nel cerchio giunse silenziosa la cerbiatta. I suoi occhi trasparenti comunicavano tenerezza e con modi sinceri e gentili si avvicinò alle due. Bruco l'erba che ricresce nei prati, porto con me l'innocenza dell'amore. La mia forza è la verità e posso stare tra gli artigli e denti avvelenati. Vi chiedo, sono forse io la vera femmina? Tutte iniziarono a desiderare di essere accolte nel cuore della cerbiatta e pensarono che sicuramente fosse lei la vera femmina. Quando un sibilo inspiegabile si levò dall'erba, così si accorsero che c'era una mantide religiosa che stava cercando di parlare. Sono io la vera femmina. Io mi disfo del maschio dopo il rapporto. Non mi trascino un peso morto come fate voi. Non nutro qualcuno che mi sfrutta e maltratta o uccide le mie figlie. Tutte erano molto impressionate da queste parole e anche spaventate ed iniziarono a riflettere che veramente fosse lei la vera femmina. Ma nel mezzo del cerchio entrò la picciona. E anche la picciona aveva qualcosa da aggiungere. Sono io la vera femmina, perché il maschio mi aiuta nella cova e nell'allevamento dei piccoli. Pensa a te, mi resta fedele per tutta la vita. Da lui ho soltanto aiuto e sostegno. Doveva avere delle capacità incredibili la picciona e quindi c'erano dei buoni motivi per credere che fosse lei la vera femmina. Dalla folla si fece distintamente avanti l'elefantessa, con la mole che sovrastava tutte, le orecchie enormi ed il suolo che tremava al suo passaggio. Ci fu una corale esclamazione di stupore. E lei, con la sua voce solenne, disse: Sono la protettrice, conservo la memoria della terra. Io sono l'antica matriarca e tutte le femmine mi rispettano. In quel momento calò dagli alberi una voce canzonatoria. Era la scimmia! Sono io la vera femmina! Sono io la vera femmina! E tra capriole e sberleffi dimenava il sedere e con tutta la sua irriverenza allargò le gambe di fronte a tutte, giocando con la sua vulva, allargandola, stringendola, solleticandola, accompagnando il tutto con boccacce pernacchie. Tutte ridevano divertite e pensarono che era un po' strana come vera femmina, ma nessuna poteva negare le qualità del suo femminile. A quel punto entrò la pantera nera. Le femmine del mondo animale si zittirono immediatamente. La pantera effettuò un largo giro con un'eleganza che lasciò tutte senza respiro. Il suo essere sprigionava un silenzioso carisma. Tutte le femmine del mondo animale ne erano estasiate. Quando, dalla spiaggia, sentirono un susseguirsi di tonfi veloci, lo scalpiccio tumultuoso di una cavalla al galoppo. La cavalla arrivò nel cerchio trionfante, alzò il muso nell'aria scuotendo la criniera. Sono io la vera femmina. Sono io la selvaggia. Ed il fuoco che sprigionava la sua massa corporea conteneva un impeto travolgente a cui nessuna poteva resistere. Era veramente lei la vera femmina. Di fronte a questa irruenza, la tartaruga entrò lenta nel cerchio. Tutte dovettero attendere che lei prendesse posizione. Dapprima si innervosirono, poi nella radura scese una grande calma da cui presero delizia. Anche le sue parole uscivano con lentezza. Osservate come posso ritrarmi nel mio guscio e trovare ogni protezione. Sentite la mia determinazione e la forza della mia pazienza. Essa scaturisce dalle profondità del mio femminile. Un'atmosfera di piacevole rilassatezza si era impadronita di loro. La tartaruga iniziò a cantare un'antica nenia che evocava i suoni perduti della magia. Nissa, nissa, nissa, nissa, nissa, nissa. Da un denso torpore, una voce roca si alzò dal cerchio e l'orsa si mise su due zampe. Sono colei che vive nella caverna e nutri i sogni di ognuna. Godo della mia intimità, mi nutro di miele e vivo nella grotta della prosperità e della rigenerazione. Le vibrazioni della sua voce si espandevano nei corpi delle presenti e si sentirono piene di un immenso potere creativo. Non ci poteva essere un'altra vera femmina. La vera femmina sono io! La vera femmina sono io! andava a protestare la gallina e guidava i suoi pulcini a razzolare nel cerchio, grattando il terreno in cerchia di semi e di vermi. Era molto indaffarata e sfidava l'orsa con incredibile arroganza. La vera femmina sono io! Sono io che faccio le uova! Sono io che covo e faccio crescere i pulcini! Voi fate le chiacchiere! Ed io! Infatti! La gallina aveva le sue buone ragioni. Poteva essere lei la vera femmina. Ma poi dall'alto discese nel cerchio la cigna. E tutte furono attirate da questa eterea figura. La grazia con cui si fermò sulla terra le riempì di meraviglia. Le bianche penne luccicavano al sole. Era splendida e la sua voce delicata. La mia grazia può aprirvi il cuore e forse farvi scrutare oltre le possibilità della vera femmina. Iniziò a danzare, tutte furono addolcite da tanta grazia e pensarono che la grazia fosse una dote indispensabile della vera femmina. Una voce gracchiante e sgradevole interruppe l'idillio e tutte ebbero un brivido di paura lungo il dorso. Io vivo della putrefazione! Sono colei che trasporta i cadaveri nel regno dei morti! E voi tutte lo sapete che sono io la vera femmina! L'ombra scura della corva aveva sorvolato il cerchio. Tutte sapevano che prima o poi avrebbero dovuto passare attraverso di lei. Veramente tutte in fondo sapevano che la vera femmina era lei. Nessuna osava dire più nulla. Intervenne il pavone e ci fu un tafferuglio di proteste e molte volevano cacciare l'intruso. Via! Via! Via! Vai, via! Via! Lasciate lottare! Lasciate lottare! Vedete come è ben vestito? Via! Via! La vera femmina sono io! Continuava ad affermare con una certa alterigia, tenendo tutta la sua ruota aperta. Alcune divennero aggressive e cercarono di mandarlo via. Vattene, non c'è niente da fare qua, via! Altre lo proteggevano! Ma ragazzi, altre lo proteggevano! Potrebbe andare in passerella! Non lo è biologicamente, ma lo è per temperamento e quindi lo è di più. Insomma, una gran confusione. Fico. Che orribile. Un maschio. Sono io la vera femmina. Che lula. In mezzo a questo caos, su tutta la radura, si sentì un suono reboante e imperioso che scuoteva anche gli alberi della vicina foresta. Dal mare sorgevano altissimi spruzzi di acqua ed una forma enorme diventò sempre più nitida. Era la balena. Io vengo dalle acque. Io vengo dalle acque. Porto con me l'intuizione. Porto con me l'intuizione femminile. Ricordatevi chi sono. Ricordatevi chi sono. Ricordatevi chi siamo. Quale immenso potere era questo? Tutte erano attonite, non c'era essere più grandioso di lei. E quindi lei era la vera femmina. Nuotando a poca distanza, dalle acque sorse la foca. Si dimenava agile, sorgendo col muso baffuto. Dalla riva si trascinò goffamente fino a raggiungere l'adunanza, in modo che tutte potessero vederla e ascoltarla. Anche io vengo dai fondali marini e posso portare messaggi fino a terra. Ho tanto, tanto, tanto da raccontare di mondi a voi sconosciuti. E la osservarono nella sua massa ingombrante di caldo erotismo. Tutte avrebbero voluto essere abbracciate da quell'essere pieno di simpatia e affetto. La sua amabile docilità le rassicurava e volevano fortemente che fosse lei la vera femmina. Da principio furono come disturbate nei loro pensieri. Un'interferenza cerebrale le pervadeva e videro formarsi un'immagine. Una polipa giaceva nelle profondità del mare. Nelle loro menti si svilupparono delle parole. Non vi spaventate della mia telepatia. Io parlo dalla parte più immersa. Io parlo dalla parte più immersa. E conosco i desideri più segreti. E conosco i desideri più segreti. Il potere più nascosto. Nascosto. Le radici più profonde del femminile. Ebbero appena il tempo di meravigliarsi della potenza della polipa e dove erano custodite le loro aspirazioni, che si sentirono squarciare la mente da un'altra forza e la lupa irruppe nel cerchio soffiando aria dalle narici. Sono io la vera femmina. Sono io la vera femmina. Sono io che canto alla luna. Che canto alla luna. Sono io la guerriera. Sono la lupa affamata, la passione che abita nei vostri desideri nascosti, la passione che vi trascina a scoprire ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Tutte la riconobbero, era lei quella forza che divorava le ossa e accecava la vista, era lei il desiderio affamato che faceva arrancare e sopravvivere alla vita. Tutto partiva da lei e procedeva attraverso di lei, e quindi lei era la vera femmina. In quel mentre, una farfalla volò leggiadra da un naso all'altro delle varie animali, con le ali dipinte di colori spiritosi e accattivanti. Era bellissima e fu facile per lei attrarre l'attenzione. Sono io la vera femmina. Io ero larva e sono rinata farfalla. Io so come morire e rinascere in un'altra forma. Detengo un immenso segreto nella mia presenza. Da sempre ne sono il simbolo femminile. Molte femmine del mondo animale non capirono cosa stesse dicendo, ma ammiravano quello svolazzare tranquillo e la sua forma graziosa. Era molto probabile che fosse lei la vera femmina. Due esseri si staccarono contemporaneamente dalle parti opposte del cerchio. Da destra venne la mucca con le mammelle gocciolanti di latte e da sinistra venne la possente bisonte bianca. Insieme iniziarono a parlare. Noi siamo la sacralità e vi invitiamo ad ampliare le porte della vostra immaginazione. Vi sorprenderà scoprire quanto numerose siano le forme della vera femmina. Le femmine del mondo animale percepirono un fluire generoso e nutriente di infinita abbondanza. Si diffuse un sentimento estatico denso di armonia, equilibrio, pace. Volevano subito venerarle perché la vera femmina erano loro. Quando un ronzio assordante annunciò il sopraggiungere di uno sciame di api. Invisibile tra le altre c'era l'ape regina, roteavano sulla radura corali e fastidiose, e tutte insieme nel cielo scrissero: la vera femmina siamo io. Guardando in alto, tutte si accorsero di un puntino nero che lentamente si ingrandiva. L'essere che si stava avvicinando già appariva maestoso. Era l'aquila. Considerando l'altezza infinita da dove proveniva, l'ampiezza delle sue ali, l'acutezza e la mobilità e la nobiltà del suo sguardo, tutte già pensavano: è lei la vera femmina. Il suo becco affilato si aprì. Voi tutte conoscete la mia intelligenza. La mia veduta è ampia, ma ho la capacità di valutare ogni dettaglio. Tutte conoscete la rapidità della mia mente e come riesco ad integrare le mie conoscenze. Voi sapete l'importanza di una mente che sa studiare e colpire. Sono nobile e altera. Vorrete riconoscere che la vera femmina sono io. E tutte sapevano quali altezze riuscisse a raggiungere l'aquila. Insieme mormorarono: la vera femmina è lei. Il sole era al tramonto e le femmine del mondo animale notturno si stavano svegliando. Quanto sia acuta la tua vista! La notte rimane oscura per te, non riesci a rivelare ciò che è nascosto. Nonostante le sue notevoli dimensioni, la gufa reale era giunta nel cerchio senza farsi udire. Tu non sveli gli inganni, non conosci le premonizioni e non sai leggere il futuro. Io sono la chiaroveggente e chiedo: chi è la vera femmina? Chi è la vera femmina? Chi è la vera femmina? Ma chi è la vera femmina? E con il suo sguardo indagatore penetrava in ogni essere presente. Tutte compresero le loro vere intenzioni. Tutte scoprirono quanto c'era di buono e meschino dentro di loro, dentro di loro, dentro di loro, dentro di loro. La capra era arrivata per prima all'adunanza ed aveva ascoltato con la massima attenzione tutte quelle che avevano parlato finora. Alle ultime luci del crepuscolo si diresse a consultare la civetta e dopo un breve scambio riservato la capra raggiunse il centro del cerchio e molte volevano ancora parlare: la iena, la cicala, la cavalletta, la trota, la topolina, la cinghiala, la rana, la cerva, la renna, la gorilla e tante altre. Ma erano curiose di sentire cosa avesse da dire la capra. Sul suo muso si intravedeva un brillare divertito, ma la sua lunga barba bianca rafforzava il suo aspetto di austera saggezza. Vedo che ci sono molte vere femmine. Complimenti, congratulazioni, molto importanti e molto convinte di sé. Non vi chiamerò sorelle, perché alcuni di voi sono capaci di mangiarmi in pochi bocconi. Vi chiamerò compagne di genere. Tutte proveniamo da luoghi diversi, tutte abbiamo qualcosa di speciale da portare con noi e di cui tenere cura. Ognuna lo custodisce in modi diversi. Ogni giorno possiamo valorizzare ed essere fiere dei nostri doni femminili. Ogni giorno possiamo riconoscere il nostro dono e quello degli altri. Facciamoci rispettare. Manteniamo ogni giorno la vera femmina viva dentro di noi. A questo punto nella radura scoppiò una rissa di baci, carezze, abbracci, musica e ballo!